Signore e signori, le pillole del divertentismo di Sandrino, Nadia e Nicola. Un saluto a tutti, benvenuti, bentornati di nuovo sabato 4 agosto 2018. Un grande saluto dai re e le regine del social web. Insomma, noi siamo social, noi siamo assolutamente social. E anche siamo così social che mentre parliamo ci riprendono, ci fotografano. E quindi dobbiamo riuscire a fare quattro cose contemporaneamente. Un saluto ai miei compagni di viaggio, bentornati alle pillole. Ciao Master Nick, ma a dire il vero, secondo me noi siamo un po' di social, perché mentre tu parli noi stiamo facendo i cacchi nostri. Esatto. Un saluto festoso a tutti. Ecco, come avete capito, è tornato Mr. Dave. Sembra un po' perché Scooby-Doo, Non ero andato. È vero, cioè, un momento Scooby-Doo, è vero. No, quello è Yogi. Medaglia. Quel un po' Homer Simpson, anche c'è qualcosa di Homer Simpson. Il rumorista, Dave potrebbe fare il rumorista. Qualcuno in maniera equivoca. Il rumorista, se volete comincio subito. No, ti ringrazio. Dipende da che parte del corpo esprime il rumore. È molto abile. Ma tornando prima, secondo me qualcuno un po'. No, aspetta, perché qui Sandrino mi conosce. Come sempre, si lanciano dei massi, ma non si spiegano le ragioni. E Sandrino ha esperienza in merito, visto che ha condiviso letti e notti con Mr. Dave senza che succedesse nulla di romantico. Non l'abbiamo mai detto, non l'abbiamo mai svelato. Beh, rimarrà lì nell'oblio del chi lo sa. Tra l'altro, neanch'io mi sono mai svelato. Cioè, c'era una barriera di cuscini che ci separava. Ecco. Sì, diciamo che si è protetto. Nuovo metodo anticoncezionale. Però diciamo che la sveglia al mattino con Dave è tipo la. Era rombante. Come si chiama il richiamo degli ampi? Però senza sonoro. No, con trombone. No, c'era molto. Infatti, dico. C'era molto sonoro. Senza il sonoro. È una mononota. Perché ti stai allontanando, Nadia, da me? È dallo spavento. Perché i nostri ascoltatori non lo sanno, ma noi stiamo condividendo un microfono. E quindi siamo molto vicini. E Nadia è possessiva, lo vorrebbe solo per lei. Esatto, soprattutto. Esatto, essendo. Il microfono. Essendo che cosa, scusate? Essendo una social web star, quindi ha bisogno di condividere pensieri, idee, opinioni. Mi raccomando, seguitela, Nadia Fashion Convento. Mi piace Master Nick, che è sgusciante sempre. No, mi piace anche questo mio profilo che non so di avere, Nadia Fashion. Nadia Fashion Convento. Da questa parte il profilo è esuberante. Anche da questa parte. Il problema è che noi non riusciamo a vedere Master Nick dall'altro lato. Esatto, perché c'è la voce, basta. Le catene montuose di mezzo, come andare dalla. Ancora una volta siamo riusciti a parlare di questo tema qua. Un tema ricorrente. È come andare due minuti di diretta. Dall'Italia alla Francia c'è una catena montuosa che le separa. Più che altro perché a quell'ora qua io ho sempre bisogno di una dose di latte. Tanto sei caricato tantissimo. Di prima era mezzo addormentato. Esatto, l'ha entusiasmato. Mezzo. È la vicinanza della Nadia. E dopo 3 minuti e 10 di parlato, ricordiamo anche cosa dovrebbe essere questo spazio, che poi si trasforma sempre in tutt'altro. Un piccolo riassunto della serata, un bignami, mi piace questo bignami, vabbè, non sapete cos'è. Un bigino, in pillole, appunto, di quello che è successo questo sabato sera. C'è un tuo ammiratore che ti cerca, Nadia. Viva la Nadia. Nadia, certo, Nadia, certo, sempre, comunque. Però, detto, ci vediamo alle 8. Questo capito. Anche secondo me è detto la Nadia. Però lui ancora non sa che si vedrà da solo alle 8, perché Nadia non ci sarà. No, posso dirlo io. Viva la foca! Ci voleva. E che Dio la benedoca! Il livello culturale di questa serata è giusto tenerlo alto. Quindi dicevamo, un piccolo riassunto di quello che è successo, di quello che succede, di quello che anche succederà, perché è giusto anche dare anteprime dei prossimi eventi. Qualcosa da segnalare per quanto vi riguarda? No, anche perché io e Sandrino stiamo ancora pensando ad altre tante parole forbite da utilizzare, perché evento non è forbita, evento è no, ma hai detto delle cose del bignami. È rimasta la presentatrice del Grande Fratello. Non divaghiamo. Beh, bignami è bello, bignami è bello, bignami è bello. Alla casa. A me ha colpito anche a me. Alla casa. Alla casa. No, cos'è che ti ha colpito? A me ha colpito un faro giallo e ho perso la vista. La Valentina? la Valentina che andava piano? No. Ti hai colpito per quello. Che fai? L'abbiamo perso? Ma perché io non mi sento? È normale, eh? No, sì. Come fai a non sentirti? Non lo so. Cioè, si sono sentiti tutti fino adesso e tu non ti senti. Adesso? Un po' di più. Ecco, adesso sì. Ti senti bene? Adesso sì. Adesso che sei dietro, sì, Dave. Anch'io ti sento, Sandrino. Oh là. Tra l'altro, telepaticamente, perché sono di fianco a un metro di distanza. No, acusticamente. Acusticamente, sì. Ok. Dicevamo della Valentina. Della Valentina? Sarebbe? Che... aveva un costume, hai ragione, grazie, che aveva un costume particolare. Che più che un costume era... ce l'aveva... un scostume. Uno scostume. No, mi manca. Non l'hai vista? Su la Valentina di Verona? Su YouPorn c'è quella sezione in cui... Sì? Come categoria Valentina? Ah no. No. Ah, scusa, pensavo fosse una... Unshaved. Ah, unshaved. Ecco, sì. E per i ragazzi che non conoscono l'inglese? Non depilata. Ullo. Che è un po' la mia, come dire, segni particolari sulla mia carta d'identità, praticamente. Unshaved. Non sei depilata? Unshaved. Ah, ok, ecco, non pensavo. Qui si sta alzando il livello proprio. Certo. I livelli si stanno alzando. A me invece ha colpito lui vestito da manto stradale. Non voglio deluderti. È carta rinfrangente. Non è vestito da ciò. Ma che cosa? Infatti. Hai indagato. Allora, intanto, Nadia, con la tua solita didascalità, descrivicelo prima. Hai fatto la signora in giallo questa sera? No, il rosso. La Fletcher? Stasera. La Fletcher? Jessica. Descrivi. Allora, descrivo. Allora, sembra un misto fra un astronauta. Vero? Vero. Però questo. Praticamente ha dei leggings molto attillati. Il colore grigio metallizzato. Viene dal futuro e cerca top. Cosa c'è scritto dietro? Cerca top ancora. Nel senso che si vuole fermare. No, secondo me è il contrario. Non si vuole arrendere all'evidenza di quello che gli succederà. Cerca l'ancora top. Ma non sta contento delle ancore semplici, perché lui è navigatore. Soprattutto apprezzare la sua ricerca dell'eleganza. Il perizoma sopra i leggings è il perizoma veramente... E vi dirò, non è l'unico, il top, il top che cercava. È vero, non è l'unico. C'era un altro sposo mitologico, sì, che si mitologico. Che tra l'altro sta socializzando con il nostro astronauta. Che tra l'altro il povero astronauta ha fatto 6 minuti su e giù per il corridoio senza cambiare marcia. Né marcia né direzione, quindi avrà creato probabilmente un solco. E niente, però era 45 giri, però c'è anche poi, però ha rallentato, è diventato 33, è andato un po' più piano insieme a Valentina, tra l'altro. L'ha fatta in coppia, me la spiegherete. Ma perché Nadia. Tu sei già col CD, sei dalla generazione CD audio. Ma siamo vintage. CD, tutto MP3 qua, file via, ma che CD, ma cos'è? Ricordiamo che Nadia è la parte giovane del gruppo. Sì, la parte, esatto, è moderna, è la modernità del gruppo. No, ma torniamo a sta Valentina che Dave ha spiegato. Io non ho ancora capito cosa ti ha colpito di Valentina. Mi ha colpito che uscivano da... Usciva con me, intanto. Usciva. È stata la mia prima fidanzatina. Anche tu, Sandrino, usce. L'ho intervistata, sì. Sono riuscito a beccarla perché era di fretta. L'ho beccata per un pelo, sono riuscito a intervistarla. Ce l'ho fatta. L'ho beccata per un pelo perché l'altro ne uscivano molti, parecchi di peli. Probabilmente si è messa... Scusate se vi... la bagnina? La bagnina, esatto, bravissima. Ok, esatto. Peccato avervi rovinato perché è grazia. Ah, grazie. Infatti non capivo. Infatti, perché scusami, Valentina era l'altra. Sì. No, grazie. Adesso ho capito. Che con molta grazia portava questa parrucca, questa parrucca. No, mostrava le sue grazie. In realtà, Carlo ha notato che era un gatto morto nelle mutande, praticamente. Ah, però. Sì, hanno detto così. Però. Pensavo fosse il parrucchino di Nastri. Perché? No, c'è anche da capire da quanto tempo stava lì. C'è da capire da quanto tempo stava lì, per quello che poteva essere morto. All'inizio era vivo, dicono. Esatto. Poi si è estinto per vari motivi. E pensa che ho avuto il piacere di intervistarla e mi diceva che è stata una scelta stilistica. Lei si sposerà il 1 settembre, se non ricordo male, e il 2 settembre ha detto che fa, come quel bellissimo programma su Rete 4, Piazza Pulita. Cioè il giorno prima è molto... No, il giorno dopo. Ah, il 2 settembre, sì, si sposa il primo e il 2. Ah, ok. Ma scusa, con che logica? Non ho capito. Che ne so, lei ha detto che voleva, dopo il matrimonio, voleva fare questo cambio di vita radicale. Quindi è vero, non lo so, magari mi ha preso perché in giro. Perché c'erano i radicali liberi. Esatto, quindi... magari mi ha preso in giro. Però così ha detto che ha avuto questa scelta stilistica di farsi crescere. Perché sapete che una volta si diceva che quando una donna cambia colore dei capelli o taglio dei capelli perché vuole cambiare vita. Oggi, a quanto pare, diciamo che la scelta del look è anche un po' più intima, diciamo così. Sandrino mi sembra che è ancora in Grecia. No, sono tornato. Lo vedo molto lontano. No, ragazzi, io volevo dirvi una cosa perché la sposa mi ha detto anche la razza del gatto. Madonna! Sì. Praticamente è un gatto particolare perché davanti è un tipo di razza, dietro diventa persiano. L'avete capita? No. Non l'avete capita? Davanti il pelo e anche no, dietro. No, perché davanti dietro diventa persiano. Davanti è vinciano e dietro persiano, quindi. Ragazzi, secondo me sta cadendo un po' il livello della conversazione. Sandrino è l'unico che l'ha capita, mi fa piacere. Dopo ce la spiego, hai capito? No, il gatto davanti era. Sì, ma solamente là in mezzo alle gambe. No, il gatto davanti era vinciano e dietro persiano. E poi era persiano perché era dietro, no? Esatto. No, scusa, è vinciano perché è passato remoto. Vinciano davanti e persiano dietro. Allora, gli amici ascoltatori da casa, ai primi 10 a casa, che rispondono a questo grandissimo quesito, cosa possiamo fare? Vinceranno una visita guidata. Brava, hai detto il verbo giusto, che è? Vinceranno. Ecco, vinciano, persiano. Ah! Ah! Ma non è neanche corretto. Ah, chi? Bella, eh? Bella. C'è della qualità alle 3:11 del mattino. È il momento di esprimere sempre meglio. Abbiamo l'eleganza di Domenico da sottolineare, che è venuto dalla Toscana in bicicletta. È vero. Esatto. Da Prato, per la precisione. Trapiantato ora a Verona. Traprantato, tra l'altro. Da Prato Calenzano. Traprantato. Traprantato a Verona. Ecco. Poi cosa abbiamo? La sposa scintillante, quella che è sul cubo in questo momento. Chi ricorda il nome della sposa? Roberta da Corte Franca. Roberta Corte Franca, bravissimo. Digoline per la precisione. Un medico con le paillette che suona anche il flauto. Bravo. Vedo che hai seguito la diretta della nostra radio con interesse. E è stato anche interessante parlare con lei. Suona ancora nella banda del paese da 12 anni, se non sbaglio. Quindi fedelissimo. Flauto traverso che è mi bemolle, se non sbaglio. Non lo so. Lei il flauto traverso col bemolle non vuole avere a che fare. No, è vero o no? È vero. Tu lo così male, Nadia? No. Tu suoni il flauto di traverso? Sì, ma non è Nadia, se tu fossi uno strumento musicale, che cosa sarebbe, Nadia? Io, qualsiasi cosa risponderà Nadia, so cosa sono io. Cosa sei te? Rispondi un qualsiasi strumento? Lo dico io. Come si chiama quello degli scozzesi? La cornamusa? E io la tromba. Lo sapevo. Io ero lì che aspettavo di saltare sul carro dei Vincenti. Lo strumento di Davy è l'oboe. In che senso? Cosa rispecchia? L'oboe. Però con l'apostrofo oboe. Vi ha stupito come strumento musicale? È bello, è molto bello l'oboe. È sottovalutato. L'oboe. Sì, è quel tubo lungo. Brava. Invece per me la Nadia è un ukulele. Un ukulele. Perché sono piccolina. No, perché secondo me secondo me perché apprezza una parte del tuo corpo che con in tedesco l'ukulele in tedesco, cioè è uno strumento sardo, perché è con KUL, no, quindi mi sembrava un più tedesco come terminologia. Ok. Invece Mr. Dave cos'è? È l'obo. Sandrino cos'è? Ditelo voi, sono io. Che faccio? Mi autodico? Sandrino è il triangolo, secondo me. Il triangolo, non l'avevo considerato. Brava Nadia, brava. Anche brava. Un po' banjo, anche un po'. Sì. No, Sandrino è lo scacciapensieri, quello sardo. È siciliano. Scusami. Bambola, due note, cioè. Bene, perché no, devi distorcere. Perché poi dopo con è una linguetta che vibra in, tra le labbra, no? E modificando l'ampiezza della cavità orale. Mamma mia. Poi ti tolgono anche le carie, tra l'altro. Ti va via anche. Mi piace in mezzo a stupidità quando ci mette proprio quel fare da Piero Angela nel descrivere le. Cioè, viene la musichetta. E guarda che però comunque rappresenta anche il carattere di Sandrino, che sembra che abbia due note e invece riesce a modulare con due note, tra l'altro. No, il suo carattere è modulabile, sei modulabile. E tra l'altro lo trovate anche all'IKEA proprio per questo, perché è modulabile. O a volte è anche mutuabile. Certo, questo. Certo. Sì, sì. No, questa è deformazione professionale, però. Sono molto deformato. Così sembra, così dipende, sembra. Dipende dai momenti. Contorto e deformato. Perfetto. Sì. Ok, ma torniamo a noi. Poi cosa abbiamo avuto stasera? Beh, io ho avuto un po' di raffreddore, se ti può interessare. Il gruppo dei chierichetti qua fuori, vedete l'entusiasmo. Presente a messa di mezzanotte di Natale? Certo. La stessa faccia, ecco. Cioè, stanno lottando con lui, il sonno. Lui si sta taggando in chiesa, tra l'altro. Facciamo un'incursione in pista, sentiamo DJ Carlone. Incurriamo, aspetta. Sì, ci sta, incurriamo. Sentiamo un po'. Lascia perdere tutta questa gente. Momento Italia. Non credere, di te non gli importa niente. Peraltro se la sta ballando con una carica impressionante DJ Carlone. Sì, è ultra carico, lo vediamo da questa. Sono sempre da questa, questa postazione che abbiamo. Come ti vesti? Io ho capito perché è carico, c'è in parte la ballerina. Certo. Sempre in buona compagnia Carlone. Che tra l'altro ringraziamo perché era venuta a fare le foto a noi, poi ovviamente ha scelto il DJ. Ha scelto il DJ che come sempre la personalità. C'ha un tiro in più. Però guardate il suo pubblico come lo acclama, proprio adorante. Sì. Ci sta. Tra l'altro bentornato al nostro DJ leader Carlone, che è come dire mancato per qualche sabato, ma è sempre un piacere riaverlo. E un saluto calorosissimo anche ad Alex Angioletti che è in Sicilia in terra sicula per vacanze e lavoro. Vacanze e lavoro, entrambe le cose. L'abbiamo visto con Gianluca Vacchi, no? È possibile? Yes, col famosissimo Gianluca Vacchi. Anzi, Gianluca Vacchi è stato fotografato con Alex Angioletti. Giusto. Gianluca ha postato le foto. Sì, ha detto... E Alex si è staggato perché non voleva avere niente a che fare. Esatto. Io tra l'altro... Tu la tua pubblicità sulle mie spalle non te la fai. Ho visto il post di Gianluca Vacchi che diceva con Alex Angioletti proprio hashtag bella vita. Esatto, quindi... esatto. Che cuffia. Perché che c'era cuffia. Anche un po' di Stefanucci. Questa cosa. Esatto, perché no, probabilmente gliel'ha suggerito Stefanuccio da qui. Ma è un piacere che mi state escludendo, perché io queste cose qua non capisco nulla. Ma perché non capisco di cosa state parlando. Così sai come mi sento io nel 90%. Vedi, perché esatto, cioè, ci sta bene. Una vita facciamo salire e scendere dai piedistalli, no? Come giusto che sia nel fuori giusto peso. Grazie, ma ha perso il pelo. No. Ha perso il pelo, però il vizio è rimasto. Bene, direi che dopo un altro 17 minuti dopo il sole delle Hawaii e tutti i marinai chiudiamo. Anche perché meglio. Dopo 17 minuti di inutilità è anche arrivato il momento di dare il saluto a tutti i nostri amici ospiti, anche se qui davanti tanti ci hanno già salutato da tempo, essendo nelle braccia di Morfeo da Adamo. Ma chi è Morfeo? Morfeo era intanto un centrocampista dell'Atalanta, Domenico Morfeo. Non era un biscotto? Ma era qua? Non era un biscotto? È stato qua prima? E poi era uno che aveva anche un circo, il famoso Giusto. Circo Morfeo. Circo Morfeo, esattamente. E, no, volevo dire volevo invitare magari Nadia, che è la nostra official PR merchandising e legal advisor del convento di Lonato. Ha detto tante parole inglesi sconosciute che però fanno titolo. Se c'è qualche avvenimento in programma degno di nota, se vuoi darci qualche data. Assolutamente sì, però prima voglio scrivermi poi tutte queste parole che mi hai detto, che le voglio sul mio biglietto da visita. È giusto? Qualunque cosa no, sia. No, più che altro pensavo che chiedevi all'avvocato. Esatto, se era un insulto. Gli estremi per no, una per denuncia. Una denuncia. Hai fatto bene a suggerirmi questa cosa. Esatto, hai fatto bene. Allora, sì, in programma questa settimana abbiamo la famosissima festa dei single. Quella. Ancora una volta sotto le stelle, perché l'ultima è stata veramente un grandissimo successo. E devo dire che anche questa edizione, che comunque cade l'8 di agosto, quindi già in piena stagione estiva di vacanze, gode di una certa popolarità e stiamo veramente. Le prenotazioni stanno arrivando. Ma secondo me è tutto grazie alla camicia di Sandrino. Sì, esatto, ebbene, la camicia sì. In effetti è un fattore determinante. È un must ormai, è un must. Anche se purtroppo, e lo comunico a tutte le fans nel caso se lo stessero chiedendo, Sandrino purtroppo ha avuto un piccolo problema. Ah sì? Sì. Pensa che nemmeno lui lo sapeva. Io lo so. Quindi adesso perché? Ascoltiamo tutti a orecchie perché aperte. Aveva degli occhiali a forma di cuore e sì, purtroppo non ci saranno più da adesso in poi perché... Aia. In modo, sì, tutto, insomma, è stata una mezza tragedia. Adesso non voglio soffermarmi su questa cosa dolorosa, però gli è stato sottratto questo suo accessorio. Stati sostituiti con un altro tipo di occhiale. Bene. Allora non riveliamo troppo. Non riveliamo, lo scopriremo quindi mercoledì. Beh, ci mancherebbe. Tutte le sue fan siano ben tranquille, che insomma Sandrino non si farà trovare impreparato. Esatto, sarò solo attenti, diciamo, sarà così. Sull'attenti. L'occhiale sarà però sull'attenti. La camicia mi confermi che è quella. Camicia quella, ambitissima, un sacco di persone me la chiedono. Tra l'altro, uscita dopo un sondaggio importante su Facebook della pagina Sandrino Convento, c'è stato questo sondaggio tra i fan ed è stata votata come la camicia della serata questa camicia che poi Sandrino ha portato. Addirittura camicia dell'anno. Ah, camicia dell'anno, sì, camicia dell'anno. E con questo vi invitiamo anche a scrivere a Sandrino Convento che esatto, con piacere risponderà. Risponde sempre puntuale, esatto. E un saluto al suo top friend Alagi che ci sta sicuramente ascoltando. Eh sì, sta con la stellina, c'è la stellina. Sì, sì, sì. Va bene, allora va bene. Vi aspettiamo mercoledì per la serata single e poi come sempre venerdì doc, sabato dinner and dance e domenica italiana l'aperitivo del convento di Nonato. Questi gli appuntamenti della prossima settimana e poi a ruota continueremo per tutto l'anno. Anche a Ferragosto, eh? Certo, importante. Vigilia di Ferragosto e giornata di Ferragosto. Aperti per ferie. Esatto. Bello, bello l'aperti per ferie. Bello l'aperti per ferie. Detto questo, non ci resta che salutarvi, augurarvi buonanotte. Vi abbiamo già dato tante informazioni e modi per raggiungerci in una delle nostre serate. Buonanotte a tutti da Master Nick. Da Nadia. Un saluto festoso a tutti. Ciao. Ti sei mangiato un cartone. Dai, ciao da Sandrino. Ciao ragazzi. Ciao, ciao belli.